suppura la suburra bubbonica delle cose spostate, ammassate, e ora esigono di ricevere degna sepoltura di carcasse, invalidanti beni di sconforto, seppur raccolte, indifferenti. Il dolo alle cose presenta dunque il conto ferocemente, cortocircuitando gli appuntati per aver protratto parvenze oltre il limite di un conservante spacchettare, come si secca il trucco sugli occhi crepanti del buffo, dalle bianche ossute occhiaie o una furtiva lacrima avversata nel giorno del nostro compito compleanno.